rilancerò la sigla On Broadway, la via del teatro, perché il venerdì, appunto, nonostante sia inizio di stagione ma ultimo giorno della settimana e vigilia di weekend, ha come protagonista queste realtà che poi abbiano poi intersezione con arte, letteratura, società, attualità, dibattito e quant'altro. Questo ovviamente fa poi parte del grande teatro della cultura. Oltretutto, a proposito di grande teatro della cultura, la mia passione per l'etimologia dei nomi, orno, teatro, ho cercato la parola orno ed è un termine botanico, è una pianta decorativa, però vediamo se ho azzeccato questa interpretazione, perché con noi in diretta ritroviamo, diretta telefonica, super mattiniero Marco Coppi. Buongiorno Marco, ben ritrovato. Buongiorno, ciao, ciao. Di solito viene definito è come porno, però senza P. Ho detto non è possibile, voglio saperne di più. Non conosco la parola orno, sono andato a ricercare. È una pianta decorativa, è un termine botanico. Ha qualche attinenza con la realtà? Ti risulta, Marco? Allora, il nome nasce molto tempo fa, quindi c'era, come dire, un destino nel nome. Io non facevo esattamente. Non facevo ancora parte di questa ASCI, un'associazione culturale, sono entrato dopo, il nome era già stato dato ed è verissimo, è una pianta, quindi un nome botanico, e era iscritto già nel nome questa iniziativa che è in corso e che è già il secondo anno che organizziamo, ed è appunto incontri nel giardino di Lida Borelli, quindi si tratta di un salotto ma in un giardino, ed eccoci con le piante, ecco, con esattamente diciamo, certo. Molto belle, tra l'altro. È in via Saragozza, sì. Mi pare, vado a memoria, 236. È in via Saragozza, comunque. Certo, via Saragozza, praticamente al Meloncello. Esatto. E altro non è che il giardino della casa di riposo per artisti ed operatori dello spettacolo, Lida Borelli. Un posto molto importante per la città, ma direi per tutta la nazione, perché è un luogo noto. È un luogo di valore storico e anche sociale e culturale. È una casa di riposo dove alloggiano e hanno alloggiato artisti inizialmente specificatamente di provenienza teatrale, ma poi cinema, musica, pittura, letteratura. Un luogo che ha una storia anche molto interessante, perché il Conte Cini della Fondazione Cini di Venezia molti anni fa fece una donazione importantissima di 100 milioni di lire, siamo negli anni 50, per ampliarla, per ingrandirla, per renderla sempre più efficiente e bella, e in memoria della moglie, della donna che aveva sposato, che era Lida Borelli, una grande diva del cinema, certo, muto e del teatro. Sì, già questa, queste citazioni storiche, si stava parlando di luoghi della nostra città ai quali davanti molte volte passiamo e per noi sono diventati quotidianità, mentre invece hanno un'importanza fondamentale, per cui sì, assolutamente, assolutamente. E questo questa iniziativa è fatta anche per ricordare o far conoscere ai bolognesi l'esistenza di questo spazio, di questa bella villa con questo bel parco intorno, tra l'altro visitata nel corso degli anni da personaggi importanti del cinema e del teatro, sì, perché non solo sono stati ospitati, ma alcuni dei quali ogni tanto passano a trovare i colleghi, famosi o meno famosi, parliamo di Sofia Loren, di Federico Fellini, di Alberto Sordi, che sono passati negli anni. Grandissimi nomi, titani dell'arte. Sì. Allora Marco, è già iniziata la rassegna, questi sono gli ultimi appuntamenti nel weekend 1-2-3 settembre. Ho letto il programma, come giustamente mi hai consigliato per gli appuntamenti. Io ero fuori Bologna per lo stacco estivo, ma ho notato, sì, che tutta la eterogeneità possibile nell'arte, nella letteratura, nel dibattito, nell'incontro, nella musica, nel teatro, veramente è stata una rassegna quanto mai forbita, oltre che completa. Insomma, ne sei soddisfatto, ecco. Sì, sono contento, siamo contenti con l'associazione perché siamo riusciti a fare una cosa che ci piace da sempre, attraversare un po' i linguaggi dell'arte, della cultura, appunto nelle sue diverse sfaccettature. Abbiamo messo insieme 9 serate, abbiamo iniziato il 26 agosto, terminiamo il 3 settembre, come hai detto, e siamo partiti con una serata che aveva per titolo Signore e Signori The Beatles, quindi una serata completamente dedicata ai 4 ragazzi, diciamo, sì, i baronetti di Liverpool. Il baronetto, presentando un libro su John Lennon a cura di Silvia Albertazzi, che è una docente universitaria. Con noi c'era Stefano Bonaga per il taglio, diciamo, sociologico e di costume della faccenda, Fabio Testoni, Schiantos, naturalmente un esperto dei Beatles che ha cantato e suonato la chitarra alcuni brani dei Beatles, e poi io col flauto e Cristina Giorgi all'arpa abbiamo dato una versione nuova, tutta nostra, di una decina dei pezzi dei Beatles, di cui meditiamo di fare una, certo, registrazione, un, certo, disco, perché siamo curiosi anche di ascoltarla, appunto. Saluto Silvia Albertazzi, che è redattrice nonché conduttrice assieme a me del Voltiamo Pagina. Il suo lavoro su John Lennon, per quanto riguarda questo riconoscimento che diamo al termine di stagione, ha vinto il premio Pellegrino Italia per Radio Città Fugico, un libro molto bello. Intanto molto saluto bene, Silvia, e l'aspettiamo mercoledì in diretta per l'inizio di stagione. Ho letto che c'era la presenza di Silvia, sì, ma ha portato veramente alla pubblicazione un saggio, un lavoro di ricerca su John Lennon veramente, secondo me, stupendo, molto molto particolare. Infatti, molto bello. Beh, insomma, la specificità, poi, diciamo, ciò che caratterizza queste serate, che appunto si chiamano Incontri nel giardino di Rita Borelli, è che sono in qualche modo divise in due parti, anche se spesso la prima e la seconda si integrano, sono legate. Normalmente la prima parte è di conversazione, quindi o si intervista qualche personaggio dell'arte, della cultura locale e non solo, o si presenta un libro, e poi dopo si ha o una performance teatrale o musica, come è stata nel caso della seconda serata intitolata La magia del cinema, dove abbiamo invitato il direttore della Cineteca Gianluca Farinelli a parlare della sua passione per il cinema e della storia della Cineteca di Bologna. Poi Celso Valli, compositore, arrangiatore che conosciamo, in una chiacchierata non tanto sulla musica, anche sulla musica dei film, ma soprattutto sulla storia delle antiche, delle vecchie sale cinematografiche bolognesi, molte delle quali non ci sono più, in un percorso di memorie molto molto divertente, molto interessante, certo, su quello che è stata. E poi a seguire sono stati fatti 4 monologhi dal grande cinema, cioè da Apocalypse Now di Coppola, Una donna sposata di Jean-Luc Godard, Elizabeth Town di James Crown, e poi l'altro è stato La leggenda del pianista sull'oceano, interpretati molto bene, devo dire, da 2 attori, Cristina Monti e Nino Campisi, introdotti dai trailer degli stessi film. Insomma, un po', certo, un viaggio così particolare, sempre credo un po' sorprendente, ecco. Ho letto anche una citazione musicale per Nina Simone e Billie Holiday. Assolutamente, il trio Indaco, Silvia Donati, Camilla Missi e Francesca Bertazzo Hart, che hanno fatto questo omaggio in musica e anche lì in parole a Nina Simone e Billie Holiday, perché era una serata che aveva come titolo Gente che ha lasciato il segno, sì, e quindi si omaggiava da una parte Giuseppe D'Agata, scrittore, sceneggiatore televisivo e cinematografico e autore per esempio del libro del dottor Tersilli, il medico della mutua, da cui poi è fatto il film con Sordi, e anche del più importante sceneggiato originale televisivo più visto ancora oggi, nonostante abbia diversi decenni, che era Il segno del comando, dell'autore era Giuseppe D'Agata, che era un bolognese e diciamo ha lasciato un segno importante nella storia della televisione. Certo, allora. Poi una serata è stata dedicata a Mozart. E qui ti sei sbizzarrito, immagino, Marco. Sì, perché sono state lette le lettere di Wolfgang al padre, che sono lettere molto serie, che parlano di lavoro, che parlano di difficoltà della vita. Mozart, negli anni in cui girava per l'Europa e scriveva, quindi, e le lettere alla sorella, alla madre e alla moglie, che sono invece lettere molto spiritose, molto anche usano un linguaggio che oggi noi definiremo nonsense, postmoderno, molto moderno, veramente, quasi ci si stupisce a capire, certo, a pensare come un uomo di quel secolo scrivesse in maniera futurista, insomma. Sì. E poi dopo molto giocava molto con le parole, era molto scurrile, parlava, sì, lui diceva un sacco, sì, usava turpiloquio, così come ridere, turpiloquio, insomma. Ma per gioco, insomma, c'era un'abilità anche del concatenare il senso e il non senso in queste lettere, che sono veramente curiose e belle, insomma. E siamo arrivati a questo weekend. Arriviamo al stasera, domani d'altro. Ascolta, Marco, mettiamo un brano di Nina Simone per intervallare le nostre parole, ce l'ascoltiamo, anche perché immagino che tu non sia alzato da tantissimo, per cui ti do un attimo di relax con la voce di Nina Simone, e poi arriviamo e parleremo di giornalismo come arte. Quindi non cambiate frequenza, restate con noi, William Piana, Marco Coppi, per gli eventi nel weekend nel giardino Lidia Borrelli. A tra poco. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say, say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart, remove all the bars that keep us apart. To be me, then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do di cultura a 360 gradi, Marco Coppi, anche se siamo avvezzi ad ascoltarlo per Paradiso Jazz come direzione artistica. Non è primavera, è autunno, o quasi, e avremo continuità anche in Paradiso Jazz, magari estorceremo qualche anticipazione. Ci sei, Marco? Sì, sono qua. Sì. Ok, magari dopo faremo anche una chiacchierina veloce sul 18 settembre. Sì. Detto questo, arriviamo al weekend giornalismo come arte. Il protagonista Enzo Biagi è questa sera. Tre appuntamenti dedicati con la conclusione ai grandi mattatori. Il protagonista sarà Walter Chiari, poi sarà protagonista la satira. Insomma, sono tre appuntamenti di cui entreremo a breve nello specifico e sono veramente da non perdere. Partiamo da questa sera alle ore? Alle ore 20:30. Okay. Il titolo della serata, diciamo così, è Quando il giornalismo diventa arte, Enzo Biagi. Quindi una serata dedicata nella prima parte al ricordo di Enzo Biagi, che tutti sappiamo essere originario del nostro Appennino e di aver lavorato e vissuto per tanti anni a Bologna. E quindi incontreremo Loris Mazzetti. Loris Mazzetti è stato un suo grande amico e un collaboratore strettissimo di Biagi, oltre che un regista e un dirigente RAI importante. Mazzetti ci racconterà magari cose che non sono note, ecco, del percorso di vita e professionale di Enzo Biagi, fino ad arrivare, insomma, a quello che ricordiamo tutti quando fu diciamo epurato dalle televisioni, certo, dal governo di Berlusconi, perché un pochino troppo critico, un pochino troppo autonomo rispetto alle direttive, con un'immensa, diciamo, classe. Sì, beh, lui è sempre con dei anzi una classe e pacatezza e stile che lo contraddistinguevano, insomma. Quindi con Mazzetti sentiremo raccontare la storia di un giornalista, però da una persona che era stata a suo fianco per molti anni, insomma, quindi sicuramente alcune cose meno note e con approfondimenti interessanti, perché poi si svolge tutto in un'atmosfera diciamo da salotto, dove il rapporto col pubblico, che peraltro è sempre numeroso, il rapporto col pubblico è molto vicino, quindi c'è una sorta di cordialità, di una bella atmosfera, insomma, da questo punto di vista. E dopo la seconda parte della serata si collega molto bene alla prima, diciamo, perché si tratta di Bauhaus Generation, che è un ensemble di musicisti e scrittori, lo scrittore in particolare Marco Tarozzi, che è un giornalista, sì, soprattutto sportivo, scrittore di libri sulla storia di personaggi che hanno segnato lo sport, però è anche un poeta che scrive liriche, diciamo, molto interessanti, che io apprezzo molto da quando l'ho conosciuto, cioè un paio d'anni. Ha uno stile che ricorda la Beat Generation, che io amo molto, e quindi abbiamo subito legato, e quindi abbiamo costruito questo progetto con Saverio Mazzoni, che legge i testi di Marco Tarozzi, io con il flauto, e Gianni Landroni alla chitarra, sia classica che elettrica e con effetti vari, che insieme facciamo questa performance sui testi di Tarozzi. Bauhaus Generation, perché ci piace ricordare la Bauhaus, sì, certo, quell'incontro tra artisti che accadde all'inizio del Novecento, e la Generation richiama la Beat Generation, e il guarda un po', Bologna. Insomma, ci siamo divertiti a fare questo calambur, che è assolutamente attinente, non è casuale, secondo me. Tutto ciò questa sera alle 20:30. Sì, domani, sì, satira con un personaggio come Luca Bottura. Esattamente, avremo Luca Bottura, che sappiamo essere, come dire, con la satira in strettissimo rapporto. È diciamo che la nuova satira non può non considerare Luca Bottura tra i suoi autori. Dico nuova perché la satira esiste da quando esiste l'uomo, ma insomma, come la musica e come le arti si evolve, diventano ci sono stili, ecco, anche in questo mondo. e lui è senz'altro l'autore di un suo stile riconoscibile, giornalista, scrittore, è un noto conduttore radiofonico e anche autore televisivo. E con lui, come in molte altre serate, come questa di stasera con Mazzetti, ci sarà Eros Drusiani. Sì, che salutiamo. Che salutiamo e che è parte anche lui dell'associazione Orno Teatro. Sappiamo Eros è un autore, anche lui un autore televisivo e scrittore di libri. Ha fatto un cabaret intelligente nella sua carriera, era molto legato a Tricca, a Roberto Antoni, degli Schianto, a Sapaco d'Alcatraz, e Eros condurrà e ha condotto diverse serate intervistando appunto questi nostri ospiti. E quindi sabato, domani, Luca Bottura, nella seconda parte un bel concerto di due chitarre con Gianni Landroni sempre e Antonio Molfetta, sono due virtuosi assoluti della chitarra classica, e faranno un repertorio che va dal 700 anche loro fino a, diciamo, i Beatles. È un concerto che consiglio anche per l'atmosfera e la situazione, questo ambiente, questo teatro naturale in cui si svolgerà appunto i giardini di casa Borrelli. Sì. Poi chiudiamo domenica 3 settembre. I grandi mattatori, brava gente, è il titolo di un libro che ha scritto il giornalista, scrittore, autore teatrale Andrea Maioli, che presentiamo appunto domenica sera. Io lo intervisterò, insomma mi farò raccontare un po' di cose, ed è un libro dedicato alla vita di Raffaele Pisu, che è bolognese anche lui, nato a Bologna, è un nome storico della televisione degli anni 60 e 70, ma anche del teatro e del cinema. Pisu, magari i più anzianotti se lo ricordano. Ah, me lo ricordo anch'io, quindi. Te lo ricordi anche tu. Certo. I bambini, cioè noi ex bambini, ce lo ricordiamo per Provolino, quel pupazzo. Quella scimmietta, tipo animava una specie di scimmietta, ma è stato anche un ottimo attore teatrale. Pensa che Pisu è legato alla fondazione del Teatro della Soffitta, quello che stava in via Zazzello, che c'è ancora, insieme a Sandro Bolchi, regista televisivo e bolognese, insieme fondarono Teatro della Soffitta, e lui i suoi primi spettacoli partirono proprio da via Zazzello. Poi dopo andò a Roma, e personaggio molto interessante. Io sto leggendo il libro di Maioli, spero di finirlo entro domenica sera. Certo. Perché si scopre un uomo molto curioso, molto creativo, molto poco legato al successo, sempre alla ricerca di qualcosa d'altro, di qualcosa di nuovo. Oggi sarebbe definito un underdog, un sottovalutato, un underdog, che però fa la differenza, quando poi arriva lascia assolutamente il segno. È uno dei grandi bolognesi nello spettacolo, nell'intrattenimento, un bel personaggio, indubbiamente. Sì, molto, e va come dire, ricordato e conosciuto in maniera un po' più approfondita, magari per molti di noi, che non sappiamo tutto, naturalmente. Insieme a Andrea Maioli ci sarà Paolo Rossi Pisu, figlio di Raffaele Pisu, che ci racconterà quindi la sua esperienza di figlio. Oltretutto Paolo Rossi Pisu è anche il fondatore della casa di produzione cinematografica Genoma Film, per cui anche lui è rimasto nell'arte come il padre. A seguire, restando un po' stilisticamente vicini al mondo di Pisu, Matteo Belli, l'attore Matteo Belli, ci regalerà una performance, uno spettacolo dal titolo Le guerre di Walter, che è un omaggio a Walter Chiari, quindi siamo ancora nel mondo di questi uomini di spettacolo, tra teatro, televisione, cinema, comicità e no. Un grande Walter Chiari, insomma, te lo ricordo. Gassman, Walter Chiari, Proietti, storia. Tutti questi personaggi che hanno fatto parte della storia del spettacolo e del teatro in Italia, difficilmente riproducibili, diciamo così. Ce li dobbiamo portare nella memoria perché sono stati personaggi unici e fanno parte di un'epopea della cultura e dello spettacolo italiano. Sì, intanto ha... scusa, ci scrive Lino che ha sicuramente anche lui qualche annetto. Pisu dice: mi ricordo Tigre contro Tigre con Marisa del Frate. Quindi esattamente anche questo, sì, Tigre, è un altro nel sì. Vedi che abbiamo un pubblico preparato su tutte queste. Bene, mi fa piacere. A seguire musica. Benissimo. Come dici, scusa? A seguire in musica per la serata di domenica? No, si chiude volta, scusa, restando nel teatro, quindi con la performance di Matteo. Diciamo che tutte le sere c'è un finale, tutte le sere al termine di ogni serata buonanotte alle favole, sono delle favolette, dei raccontini che molto carini, sottilmente umoristici di Eros Brusiani, che ha raccolto in un libro queste cose che ha scritto 30 anni fa e che venivano pubblicate per Lupo Alberto, sono state rieditate e vengono lette da Eros Brusiani. Bene. Insomma, abbiamo messo insieme molti aspetti della musica, della letteratura, del teatro, coinvolgendo bravi artisti, tra attori, attrici, musicisti, intorno a Bologna e nel giardino della Villa Borelli, dove si entra a ingresso libero e c'è una bella platea e dove naturalmente in prima fila ci sono alcuni degli ospiti della villa che ogni sera omaggiamo e siamo contenti che partecipino a queste nostre serate, insomma. Bravo Marco. In conclusione ricordiamo quello più imminente di questa sera alle 20:30, Enzo Biagi, giornalismo come arte, mi pare che il titolo porti un pochettino questa intestazione, da non perdere. Parco Lida Borrelli in via Saragozza 236 e a questo punto una piccola rivelazione in anticipo: il 18 settembre ci sarà Kurt Rosenwinkel in Sala Paradiso, ho letto bene? Hai letto molto bene, sì. Perché... come mai? Passava qua per caso? Passava da qua? No, abbiamo pensato insieme a Franco Panizzi, presidente dell'Arci di San Lazzaro, con cui da 15 anni, che diventeranno 16 presto appunto, mi occupo della direzione artistica di Paradiso Jazz Festival, che come sai benissimo si tiene in primavera. Abbiamo deciso di organizzare qualche altro concerto nel periodo nel periodo autunnale, invernale, in attesa del festival. Quindi facciamo un concerto in settembre, poi un altro in novembre e un altro ancora in gennaio, per poi aspettare la primavera per partire. E quindi sono questi appuntamenti. Il primo è appunto il 18 settembre con la chitarra di Rosenwinkel. Avrai visto forse i grandi manifesti sai, poi tra l'altro per me Paradiso Jazz è qualcosa che nel cuore mi sta assolutamente, per cui verrò a disturbare un pochettino. Ma anche, figurati, sei sempre oltretutto ne daremo anticipazione, perché come tu ben sai Radio Città Fujiko, la radio del jazz, con Jazz Live e non solo, per cui ci sentiremo anche a breve. Intanto io, Marco, ti ringrazio tantissimo, oltre che aggiungere i complimenti per l'ottimo e di più lavoro per le serate nel Parco Lida Borrelli in via Saragozza 236. Arrivano i complimenti anche da Sergio, che dice: vado a vedere Belli che fa Chiari, comunque bella tutta la rassegna. Ecco, capito. Grazie molte, grazie tanto Marco, buona giornata, buon venerdì. Ciao anche a voi. Grazie, ti abbraccio forte, ciao. Anche a voi un abbraccione, ciao. Grazie. One more thing. Your love is a wonder to me. I just love you. Really, I would really love you for free. All I want to do, all I want to do, all I do, I don't want you to change your mind. prima parte si può dire, o quasi terminata, rientriamo in diretta dopo gli spot, ringraziando ancora una volta Marco Coppi, ormai collaboratore di Radio Città Fogico con Paradiso Jazz e con gli appuntamenti culturali legati a teatro, letteratura e quant'altro. Restate sintonizzati sui 103.1, già in partenza una ricchissima colazione, eh? A tra poco. I never seen such a smiling man.